Te ne freghi del domani, mami. Togliamo gli indumenti e poi stringiamo queste mani. Strani modi di vivere in quest'era di follie. Stanotte il mondo è qua dentro, soddisfa le mie fantasie. Sentila questa qua, la melodia della mia sera. Yo, magna, magna, compa, che non si cambia. Lascia a casa la paranoia e l'ansia. Prendi l'acqua a calci sino a che non ti rilanci. Questo vortice di suoni, di parole in quei fondi. Senza santi, siamo in gruppo e potenti, deliranti. Siamo uniti da senti, menti diversi che prendono forma. Coi versi alimentano sogni, yo. Ma quante volte ti ritrovi con le mani all'aria, pregando che la notte passi e la tua mente vada. Cercando vie di fuga, testa dura, da paura. Musica come unica cura. We'll be right back.